sole, cuore, amore, non fanno rima ma fan guadagnare luna, stelle, cielo, canzoni idiote mi metto a sparare, dolce, bella, cara, son solo un bellone da idolatrar. Sole, cuore, amore, la camicia aperta per farti sbavare, luna, stelle, cielo, lo sguardo triste per farti allentare, dolce, balla, cara, canto in playback ma riesco a stonare, sono uno dei tanti gran bei portavoce dei produttori d'un mercato veloce di canzonette tra il miele e il feroce che chiaman dolcezza all'egoismo infantile. E 1, 2, 3, non mi importa niente, no, di farti pensare, ti voglio solamente prendere soldi e scopare, fammi anche il favore, non mi far aspettare, vado un po' di fretta, un'intervista da fare, no, non voglio certo neanche farti sognare, perché i sogni veri non si possono comprare, invece rivestendo e rivendendo il banale ti faccio spasimare il cofanetto speciale. Sì, sole, cuore, amore, quando finisco qui di suonare, luna, stelle, cielo, sono in roulotte, vienimi a provare, dolce, bella, cara, porta le amiche, adoro brindare, sole, cuore e amore, per cominciare ci andiamo a drogare, luna, stelle, cielo, poi mi leggo a letto e vi inizio a stuprare, dolce, bella, cara, la notte è lunga, lasciamola andare, non mi importa niente, no, di farti pensare, ti voglio solamente prendere soldi e scopare, fammi anche il favore, non mi far aspettare, vado un po' di fretta, un'intervista da fare, no, non voglio certo neanche farti sognare, perché i sogni veri non si possono comprare, invece rivestendo e rivendendo il banale ti faccio spasimare il cofanetto speciale. Sì, sole, cuore, amore, se i miei dischi smetti di comprare, luna, stelle, cielo, ho messo un sensore e ti vengo a cercare, dolce, bella, cara, ti faccio sparare.